Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di denari. Conducono l'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Non potevamo mica farci mancare di celebrare la ricorrenza. Ma la ricorrenza di San Valentino, cara Deborah, buongiorno, tanti auguri, auguri a tutti gli innamorati, a te, a tutti gli innamorati. A tutti gli innamorati risparmiatori. I risparmiatori e gli investitori non innamorati, questo mi piace effettivamente. Ecco. Allora, lo sapevi che c'è un serpente corallo anche in versione romantica? Ma guarda, lo temevo purtroppo, spiegami bene, spieghiamolo bene alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, ce lo racconta Eurostat, che è l'istituto di statistica europeo. Fra gli internauti europei, che sono quelli, gli europei che praticano il web, quindi siamo un po' noi tutti, sta aumentando annualmente anche il numero di chi sul web cerca la sua anima gemella attraverso iscrizioni a siti di incontri e agenzie matrimoniali. E questo lo sapevamo. Va bene, la tecnologia che ha affiancato l'abituale ricerca, diciamo, uno una volta andava alle feste e invece adesso va anche su internet. Esatto, oppure ti chiedeva banalmente, magari trovavi al bar che prendeva il caffè vicino a te una persona che ti piaceva, insomma l'approccio lì era fisico, normale. Invece nel mondo del Facebook e oggi, come sappiamo, le relazioni si cercano con altre modalità. Allora, fra queste persone che cercano l'anima gemella sui siti di incontro, alcuni consumatori non coronano affatto il romantico sogno, ma piuttosto incappano in indesiderati abbonamenti a pagamento, truffe di vario genere. Lo ha fatto sapere il Centro Europeo Consumatori Italia. Anche nel 2019, ci racconta questa organizzazione, il centro ha ricevuto molteplici richieste di assistenza da parte di consumatori che lamentavano esorbitanti addebiti ad opera di siti di incontri che, proponendo allettanti prove gratuite o particolarmente convenienti, perché poi c'è anche lì la graduatoria, no, delle offerte, finivano con il rivelarsi delle trappole senza via d'uscita. I consumatori al momento dell'iscrizione non vengono infatti adeguatamente informati su quali servizi sono inclusi nella versione gratuita e quali invece sono a pagamento. Ma è un canonico serpente corallo, mi viene da dire, cioè una solita fregatura. Ne abbiamo parlato tante volte nella versione investi in questi paradisi o pseudo paradisi esotici, investi in mercati che ti faranno guadagnare il 10, il 20, il 50% in un mese. Ecco, questa è la versione invece romantica per il giorno di San Valentino. Mi piacerebbe sapere qual è il servizio gratuito dell'app di incontri o quello a pagamento, cioè gratuitamente ti fanno vedere un paio di foto, magari anche un po' così non chiare, oscurate, qualcuno invece ti proporrà un appuntamento fisico con un candidato al fidanzamento, non lo so, ma non lo voglio neanche sapere. E magari c'è anche una valutazione, che so, estetica, reddituale del candidato, esatto, o della candidata che ti viene proposta. Il no? rating tripla A, il candidato che poi esatto, e se non paghi invece ti danno un candidato tripla C. A proposito del Facebook invece, ecco perché il Facebook pensava di festeggiare il San Valentino, che, cioè nel senso della ricorrenza di San Valentino, con il lancio di una nuova sua applicazione di incontri, Facebook Dating, perché oramai bisogna usare l'inglese anche per questo. Date, un appuntamento galante. Ecco, grazie Deborah che mi assisti in questa nuova versione linguistica del romanticismo. Però Facebook Dating non parte oggi, San Valentino, perché? Perché i funzionari del Data Protection Commission irlandese, cioè quelli che si occupano del rispetto della privacy, sono andati in Irlanda e hanno detto: ma ci fate un po' vedere questo Facebook Dating? E non gli è piaciuto per niente l'uso che questa applicazione farebbe e vorrebbe fare dei nostri dati personali. E quindi, hanno affermato i portavoci di Facebook, del Facebook, stiamo impiegando un po' più di tempo per assicurarci che il prodotto sia pronto per il mercato europeo. Sì, immagino che il tono sia stato più o meno questo, perché effettivamente loro erano pronti per partire il 14 e gli hanno un pochino guastato la festa. È vero. Intanto le associazioni dei consumatori italiane, secondo te, si sono fatte mancare l'occasione di andare a censire le nostre abitudini di consumo in questa giornata? E allora, Codacons, che cosa ha scoperto? Che gli italiani spenderanno in medio In media una trentina di euro a persona per omaggiare il partner e fare dono, soprattutto di cioccolati. Beh, 30 euro di cioccolatini, signora, una gran bella fornitura. Speriamo che siano quelli di massima qualità. 350 milioni di euro per i regali di San Valentino. Questo è quanto appunto si spenderà in questa giornata per celebrare questa ricorrenza, che vedrà come protagonisti 12 milioni di innamorati, ecco, in campo. Ecco, io su questo dato dei 12 milioni, se siamo in 60, va bene, escludendo magari i bambini, però perché solo 12 milioni? Cioè gli altri non sono innamorati, evidentemente. Non so che dirti, il Codacons dovrà spiegarci come ha compiuto appunto questa ricognizione. Codacons ci dice che appunto i cioccolatini vincono su tutto, forse anche perché consentono, dice l'associazione dei consumatori, di destreggiarsi meglio con le spese, non esigono un patrimonio, e poi sono avvantaggiati dalle limited edition che le aziende lanciano per la gioia dei consumatori disposti a spendere qualcosa in più se ovviamente la confezione è rosso cuore e glitterata. 5 milioni sceglieranno di festeggiare con una cena romantica, quindi in queste serate praticamente ristoranti pieni, e chi capiterà, a me una volta è capitato un 8 marzo, però ero con degli amici, andiamo a cena stasera, non trovavamo posto, quindi tutti a disperarci sul perché, ed era l'8 marzo, era l'8 marzo, ce ne siamo tornati immediatamente a casa, perché mi proprio queste ricorrenze qua non, e allora guarda, non parleremo in realtà, questo accenno ai ristoranti mi dà il destro e l'occasione per ragguagliare ascoltatrici e ascoltatori sul tema della puntata odierna. Ecco, se andate a cena stasera non tirate fuori il buono pasto per pagare, perché non fate una gran bella figura con il partner, ecco, se la volete offrire naturalmente. Questo, diciamo, il consiglio che vi viene dalla parte femminile di Due di Denari, che giustamente ci mette sull'avviso. Comunque, se avete dei buoni pasto, se utilizzate dei buoni pasto, ascoltate questa puntata, perché il settore è un pochino in ebollizione. Da una parte c'è un intervento della legge di bilancio che da quest'anno ha modificato alcune regole fiscali, quindi sostanzialmente agli utilizzatori cambia un riferimento nella busta paga. Lo spiegheremo con un esperto di valore mondiale. Assolutamente. Poi c'è tutto il caos che era stato generato dal fallimento di un grande gruppo, di una grande società emettitrice di buoni pasto, Qui Group, che aveva causato proprio molte perplessità sull'utilizzo appunto di questo strumento, perché in molti si sono ritrovati titolari di questi, come li possiamo chiamare, questi buoni, buoni pasto, per l'appunto, ma non li potevano utilizzare perché le società presso le quali, che ne so, tu vai il ristorante, lo utilizzavi, il ristorante non lo accettava perché l'azienda a sua volta era in procinto di fallire, poi è fallita e quindi non rimborsava naturalmente, e quindi da lì un po' tutto il settore è stato messo in discussione. E tra l'altro la Consip ha avviato una ricognizione che si protrarrà per tutto questo primo trimestre del 2020 per capire come funziona la fornitura di buoni pasto riferimento alla pubblica amministrazione, che peraltro era una delle dei settori privilegiati proprio dalla già citata Qui Group. Allora, tutto questo fa sì che il settore stia vivendo un momento turbolento. 800240024 per segnalarci problemi, questioni, vicende che vi sono occorse a proposito di buoni pasto. Potete anche farlo con dei messaggi SMS o WhatsApp all'abituale 349 238 6666. E poi naturalmente c'è sempre la nostra email 2didenari@radio24.it. Tutto questo verrà affrontato naturalmente come d'abitudine dopo il nostro giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Indicheranno giorni con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. È un'altra versione, quindi ti sei ugualmente... No, eccolo, ah sì, sì. Ah no, perché chi è che entra? Voce... Credo fosse Dori Ghezzi, però non vorrei sbilanciarmi mamma così. Mamma mia santissima. È una sorpresa che mi ha fatto Marco Lombardo. Io ho solo precisato, se fatto una modesta richiesta, si poteva avere questo Impiccheranno Jordi, perché dice rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Ecco. E quindi dice la canzone, lo impiccheranno con una corda d'oro, privilegio raro. Era una buona introduzione per la notizia che stiamo andando a dare. Esattamente, e che ho letto sul Sole 24 Ore di oggi, devo dire con così un certo compiacimento, perché ho scoperto che adesso non ti impiccano più nel Regno Unito se non paghi il canone per la BBC, il canone TV, però è un reato e si va in galera, si va in galera perché come spiega Simone Filippetti oggi sul Sole 24 Ore, pagina 22, se tu non paghi, praticamente è come se stessi rubando al sovrano, perché anche l'utilizzo dell'etere fa parte di questo possedimento, di questo fondo della corona, quindi è come se tu stessi rubando alla regina Elisabetta. E allora è come il Jordi della canzone rubò sei cervi e quindi verrà impiccato con una corda d'oro, e così anche tu non paghi il canone alla BBC e allora finisci in galera. E ti prendono, spiega anche Filippetti, perché grazie alle smart TV che sono connesse in rete è relativamente facile capire facile. Chi si collega ma non ha pagato. Esatto. La license, si chiama il license fee, esatto. Costa 154,5 sterline l'anno, quindi è decisamente più caro dei nostri 90 euro che paghiamo alla Rai. Però va detto che nella grande maggioranza dei canali la BBC non prevede pubblicità e quindi questo introito va a coprire i tre quarti delle sue necessità, appunto, di entrate. Quindi lì non si è reso necessario addebitare nella bolletta dell'elettricità. No, credo che sia bastata la rata del canone. La minaccia di finire in galera se la non moral paghi. Suasion, diciamo che è stata più che efficace. Allora, c'è un progetto carino che volevo raccontarti, lo abbiamo notato proprio questa mattina. Parte il progetto di cittadinanza attiva del Consiglio Nazionale dei Commercialisti per far conoscere ai bambini delle scuole primarie l'importanza delle imposte per educarli alla legalità. Era meglio educarli da piccoli, come diceva una nota canzone, non proseguo perché poi il resto è anche un po' sgradevole. Tasse ce le racconta il commercialista. Adesso si intitola qualcuno, così la notizia. Qualcuno carina. Secondo me si rivolgerà al telefono azzurro per dire volete parlare di tasse anche ai bambini, non avete cuore. Vabbè, poi da grandi lo sai che sono diventano affetti da delle patologie di dimenticanza e quindi è bene che intervenire, se tu c'hai l'imprinting dall'inizio, da quando pratichi i banchi di scuola è meglio. Praticamente si tratta di un percorso formativo che è rivolto a tantissimi giovanissimi, appunto, studenti, e li si aiuta con questa modalità a familiarizzare con le imposte, ad avere consapevolezza della loro importanza, e più in generale gli si vuole trasmettere il valore della legalità. Questo è stato un po' il messaggio che ha comunicato il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Massimo Miali, che peraltro è stato qui da noi quando proprio c'è stato Telefisco, ce lo potevamo far raccontare in anteprima. Quindi un progetto destinato ai bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria di primo grado. È chiaro che il progetto si presta a qualche commento anche così un po' ilare, però effettivamente è importante spiegare perché una collettività si regge sulla contribuzione di tutti, appunto con il pagamento delle imposte. Il progetto prevede poi alla fine una lezione di un'ora, quindi si utilizza un cartone animato, alcune slide e un piccolo libretto, però poi ai bambini viene dato un attestato di partecipazione a questo corso, primo approccio con il sistema fiscale, che di suo sarebbe anche una cosa che serve a tutti quanti. Poi magari nella prassi non è così giovevole. Senti, devo assolutamente raccontarti cosa ci scrive un ascoltatore su WhatsApp augurandoci buon San Valentino. Forse l'avete già detto, gli dico di no. A Cantù hanno ritrovato e consegnato alla fortunata proprietaria il braccialetto con diamanti, il tennis. Il Forse tennis. Questo anche per merito vostro. Ma come sono contenta! Ma guarda, oramai facciamo anche ritrovamenti. Ma questo, guarda, è fantastico, perché poi cominceremo la parte della puntata dedicata ai buoni pasto proprio con chi l'ha visto. In questo caso qualcuno l'ha visto il tennis. Non se l'è tenuto peraltro, perché è quindi un atto particolarmente generoso. Bravi. E che va lodato, e la legittima proprietaria ha ritrovato il suo braccialetto tennis di cui abbiamo parlato qualche giorno fa proprio qui a Due di Denari. Allora, qualche giorno fa, no, forse non abbiamo più data la notizia, ma c'era qualche dato pubblicato dal Sole 24 Ore che indicava quante persone avessero trovato un impiego grazie all'attività dei navigator, che sono queste figure che sono state predisposte nell'ambito della più complessa operazione di erogazione del reddito di cittadinanza. E insomma, ieri sera ANPAL Servizi, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha comunicato quante persone al 31 gennaio, quindi abbiamo proprio il dato ufficiale e molto recente, quante persone al 31 gennaio scorso avessero ottenuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza. Si tratta di 39.760 persone persone, c'è stato un balzo in avanti di circa 11.000 unità rispetto al 10 dicembre dello scorso anno, più 38,2%. I centri per l'impiego fino ad ora avrebbero convocato 529.290 beneficiari di questo assegno su un totale di 908.198 che potrebbero stipulare un patto per il lavoro. I presenti alla prima convocazione sono stati 396.297 e sono stati sottoscritti 262.738 patti di servizio. Diciamo che un 25% quindi degli interessati che sono potenzialmente interessati sono stati effettivamente indirizzati a un patto di servizio, che un buon terzo di questi, sempre del totale, si è presentato a una prima convocazione. Insomma, come ha segnalato poi il presidente ANPAL Mimmo Parisi, la fase 2 del reddito di cittadinanza è partita e vediamo insomma se poi i risultati però proseguiranno. Come sapete, tutti i mercoledì noi ci occupiamo e ci preoccupiamo del lavoro e del cercare lavoro e trovare lavoro qui a Due di Denari. È il momento di ascoltare che cosa ci hanno comunicato al 349-238-6666 i nostri ascoltatori per la rubrica di Dillo a Due di Denari e poi via coi buoni pasto. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, io non sono una che lavora alle poste, vabbè, ho 64 anni, sono un'infermiera. Paragonarci a altre professioni, a meno che non abbiamo avuto in famiglia qualcuno che ha fatto la professione messa sotto accusa, penso che non sia assolutamente da giustificare un'uscita del genere. Io non la trovo felice, la trovo molto infelice. Al di là del fatto se alle poste si lavori o meno, si vada a fare la bella vita, cosa che dubito, perché ormai da nessuna parte si fa la bella vita, non sono i posti di lavoro di una volta, non si può più accettare che si facciano paragoni. Persone che quando parlano in pubblico dovrebbero misurare le parole visto i compensi che hanno e il mondo in cui vivono, che non sono da tutti. Allora, sì. Sì, ma guarda, io avevo già preso le difese dell'allenatore di quella squadra lì e già mi costa, perché sai che io, come dire, sei di altra fede calcistica, l'abbiamo leggermente capito in questi anni di co-conduzione. Immagino che anche gli ascoltatori avessero qualche sospetto. Vabbè, adesso questa squadra dice piano con i giudizi, perché nessuno, se uno non sa veramente in cosa consiste il lavoro di qualcun altro, perché giudicarlo? No, ha ragione, che quando comunque sei un personaggio di un certo tipo, di un certo profilo, effettivamente le tue parole pesano, forse hanno un peso specifico un po' più elevato rispetto a quelle che possono essere pronunciate da altre personalità, quindi su questo effettivamente condivido un po' la linea di pensiero dei nostri ascoltatori. Andiamo a sentire sta storia dei buoni pasti, come funziona, Mauro, perché l'hai già detto tu prima, un ginepraio in questo momento, quindi lo è. Via. Dove eravamo rimasti? Se abbiamo riscomodato questa sigletta che utilizziamo ogni tanto quando così lasciamo un po' sedimentare certe storie per un po' di tempo e poi però si rende necessario ritornarci su, perché ci sono delle novità ma non del tutto risolutive rispetto a delle pendenze vecchie. Anzi no, temo che quest'oggi avremo molti fronti aperti, chissà se riusciremo poi a chiuderne anche qualcuno. Allora, abbiamo scomodato due esperti di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, li vado a presentare in rigoroso ordine alfabetico per cognome. Do il benvenuto a Luciano Sbraga, che è vice direttore FIPE e direttore del centro studi di FIPE. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Pronto? Non ce l'abbiamo, non adesso abbiamo... ce l'abbiamo, intanto FIPE, segnaliamo agli ascoltatori e alla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. E poi andiamo all'altra nostra certezza. All'altra nostra certezza, che è Stefano Sirocchi, che abbiamo riscomodato qui a Due di Denari, già ci aveva illustrato, come dire, gioie e dolori, esatto, dei buoni pasti, no, in altre poi occasioni. Lui con grande ironia si definisce il buono pastologo. In realtà Stefano Sirocchi è un commercialista, è un esperto del Sole 24 Ore, gli è capitato anche di occuparsi di buoni pasti, allora noi l'abbiamo riconvocato in onda. Buongiorno, bentornato. Grazie mille per la presentazione e buongiorno a tutti. Allora, nell'attesa di ristabilire il collegamento con il direttore, con Luciano Sbraga, Sirocchi, c'è stata una modifica importante della legge di bilancio che possiamo riassumere, abbiamo un minuto prima dei mercati finanziari. Sostanzialmente favoriamo i ticket in formato elettronico, che già sono in circolazione, penalizziamo invece i ticket in formato cartaceo, tutto questo dal 1 gennaio scorso. Ma è un effetto Greta questa, per abbattere un po' di carta in circolazione, o no, c'è dell'altro? Credo che fosse una cosa invece più per in finalità antievasione, è così Sirocchi? Sì, allora, dunque, dal 1 gennaio 2020, quindi da pochissimo, sono cambiate le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto. Sostanzialmente gli attuali limiti sono differenziati tra i buoni cartacei e quelli elettronici, e in particolare i buoni cartacei hanno una soglia fiscale di non imponibilità, quindi di non tassabilità, fino a 4 euro, mentre invece quelli elettronici hanno una soglia ben più alta, praticamente il doppio, e quindi pari ad 8 euro. Il cambiamento in cosa è consistito? Nel fatto che i vecchi limiti, quelli diciamo in vigore fino al 31/12 dello scorso anno, erano più alti per i buoni cartacei, quindi anziché gli attuali 4 euro era previsto 5,29 euro, e per gli elettronici invece un importo più basso, ovvero 7 euro. Quindi diciamo questa è la, in sintesi, diciamo il cambiamento. Questa non tassabilità significa sostanzialmente che se il lavoratore riceve un buono cartaceo fino a 4 euro non viene tassato, ma se si sale oltre i 4 euro sul, come valore, viene inciso dall'IRPEF, possiamo dire così. Esattamente. Allora, aspetti, perché su questo abbiamo almeno raggiunto un punto che mi pare chiaro e fermo, tutto il resto sarà invece da decifrare, ma lo faremo dopo le informazioni sui mercati finanziari, cioè, Deborah, per favore, le borse. Ritroviamo il senso dell'uomo nonostante la borsa. Due di denari. Forse non sapete che San Valentino era un vescovo di Terni che, oltre ad essere protettore degli innamorati, è anche protettore delle persone che soffrono di epilessia. Ecco, questo penso che sia un po' interessante. Carla da Roma. Ho sentito adesso che hai appena parlato di questo progetto di educazione alle imposte che ci sarà nelle classi quarta e quinta elementare. È anche un modo per consapevolizzare i futuri ragazzi e adolescenti su quelli che sono appunto le uscite extra che una famiglia può avere, che quindi se papà o mamma non ti comprano la tal cosa non è certo perché sono diventati cattivi tutto ad un tratto, ma perché ecco nel budget familiare ci sono tante cose che influiscono quindi di cui bisogna tenerne conto. È un po' per tutti il concetto dell'educazione finanziaria, no Mauro? Diciamo che è un concetto di carattere complessivo, non si tratta solamente di insegnare l'ABC di uno strumento di risparmio e di investimento, ma è educazione proprio al comportamento, alla spesa, come tu dici sempre, alla sì, gestione anche non delle... è solo appunto una visione di educazione finanziaria come privazione, ma anche come educazione a quanto si può spendere e in quali momenti si può spendere. Vorrei però interrompere tutto questo, anche questo flusso sui buoni pasto eccetera, con un messaggio adorabile di un ascoltatore che preferisce rimanere anonimo, Deborah. Ma al 349-238-6666 ci scrive così. Sì. In questa giornata vorrei offrire con alla questo dottoressa... tono? Sì, esattamente con questo tono. In questa giornata vorrei offrire alla dottoressa Rosciani un mazzo di rose virtuale, ovviamente acquistato con regolare scontrino e pagato con metodi tracciabili. Torniamo a occuparci di buoni pasto, perché abbiamo recuperato... Io tradisco anche 2 o 3 buoni pasto, io come San Valentino sono molto poco romantica. Un bouquet di buoni pasto, sentiamo se conviene però, chiediamolo al vice direttore FIPE, direttore del centro studi FIPE, Luciano Sbraga, buongiorno. Buongiorno Sbraga, in collegamento, non abbiamo fortuna oggi con Luciano Sbraga. Allora torniamo invece da Stefano Sirocchi, dottore commercialista, ci stava spiegando i nuovi livelli di tassazione che appunto hanno visto una riduzione dell'agevolazione per quelli ancora di carta e invece quelli elettronici che sono stati esentati fino a 8 euro, quindi diventano più convenienti per lavoratori e aziende. Sirocchi, ma se uno ha ancora i vecchi buoni cartacei che deve fare? fare? Sì, dunque, in caso si abbiano, le aziende abbiano ancora i blocchetti di vecchi buoni, in quanto generalmente si acquistano in anticipo, quindi più blocchetti, e vengono consumati chiaramente mensilmente con le regolazioni. Cosa succede? Allora, il principio base della tassazione del lavoro dipendente è quello di cassa, cioè la tassazione avviene in base al momento di percepimento della somma o del valore da parte del dipendente. Quindi questa è la regola generale. Ora, a questa regola c'è una piccola deroga che consiste in un principio di cassa cosiddetto allargato, cioè si dà fondamentalmente la possibilità all'azienda di retribuire il dipendente fino al 12 gennaio dell'anno successivo. Sintetizzo e spero di semplificare, cioè normalmente la tassazione avviene nel momento in cui viene consegnato il buono pasto, quindi se siamo sotto soglia non c'è alcuna tassazione. Se siamo sotto i 4 euro, per capirci, nuovo limite del cartaceo. Esattamente, se invece oltrepassiamo questa soglia, la parte imponibile è soltanto il surplus, cioè l'eccedenza tra il valore del buono consegnato, poniamo 6 euro, e i 4 euro del limite fiscale parlando di cartaceo. E quindi si verrà tassati sui 2 euro. Esatto, quei 2 euro lì sono imponibili. Ora, questa imponibilità di questi 2 euro naturalmente sembra un piccolo valore, ma in realtà lo dobbiamo moltiplicare per tutti i buoni erogati e diciamo il limite è un limite giornaliero e che fa riferimento ai giorni effettivamente lavorati, quindi per esempio gennaio sono 21 giorni, quindi nel caso più comune di vecchi buoni da 5,29 euro, che questo era il vecchio limite, poi magari ci torniamo un attimo, e i 4, sì. L'imponibilità è per 1,29 euro, quindi 1,29 euro va moltiplicato per tutti i buoni che sono e viene ripreso a tassazione. Esatto. Ma questo significa che avremo, perdoni, un cuneo fiscale, come si chiama, più maggiorato, esatto, in qualche modo nel mese di gennaio? Allora, sì, nel senso, effettivamente è proprio questo il punto, cioè diciamo una questione che può rimanere dubbia. Viene tassato il buono pasto, cosa succede? Otterrò un buono pasto inferiore? No. In realtà la imponibilità del buono pasto concorre all'intero, alla formazione dell'intero reddito di lavoro e quindi in sostanza si avrà un salario netto inferiore. Noi abbiamo fatto sul Sole anche delle simulazioni che diciamo questo costo, chiamiamolo così, questo costo fiscale, e qualora il buono fosse di 5,29 euro, che era il vecchio limite che c'era prima del cartaceo, cartaceo, che peraltro è un limite storico perché erano 10.240 euro, parlando in lire, pardon, parlando ancora in lire, proprio così. Quindi dicevo, questo euro e 29 per 230 giorni lavorati fanno circa 300 euro di imponibili annui, che vuol dire da un minimo di 89 euro, 90 euro a un massimo di 143 euro annui di maggiore tassazione, a cui va aggiunto, perché queste sono tasse e contributi a carico del dipendente, a cui va aggiunto gli oneri previdenziali che vanno versati da parte dell'impresa, calcolati di nuovo sull'imponibile. Sì, allora, aspetti perché abbiamo raggiunto in collegamento Deborah. Abbiamo una sostituzione sul campo di gioco, perché è uscito Luciano Sbraga ed è entrato Roberto Calugi, quindi il vice direttore è stato sostituito dal direttore di FIPE. Calugi, buongiorno e grazie di averci aiutato in questa mattinata di collegamenti complicati, eccoci, buongiorno. Buongiorno a lei, ovviamente non sostituisco Luciano. No, c'è un avvicendamento necessario, sì, assolutamente, però la ringraziamo insomma per averci lo stesso aiutato a completare naturalmente anche con il vostro contributo il nostro ragionamento di questa mattina. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi commenta con noi questa notizia arrivata da qualche giorno sulla ricognizione del meccanismo di funzionamento dei buoni pasto avviata da Consib, che è l'organizzazione pubblica che si occupa di monitorare, organizzare delle forniture, esatto. Allora, che cosa significa questa ricognizione e perché si è resa necessaria in questo momento, Carugi? Ma guardi, mi faccia fare una battuta, visto che è venerdì, andiamo verso il weekend. Ed è pure San Valentino, qualcuno... oltretutto, ecco. Esattamente, dobbiamo anche andare a mangiare nei nostri pubblici esercizi. Eppur si muove, direi, nel senso che finalmente, credo anche grazie allo spazio che anche la vostra testata ha dato ad un'iniziativa che è stata portata avanti non solo dalla FIPE ma anche da Federdistribuzione, Coop, Conad, Confesercenti, sigle che normalmente non stanno proprio insieme su tutti i tavoli, però questa volta ci sono messi insieme tutti quanti perché abbiamo denunciato quello che è arrivato, quello che sostanzialmente riteniamo un livello di insostenibilità che ha raggiunto questo modello. Il nostro non è una critica allo strumento, il nostro è una critica a come soprattutto il settore pubblico ha gestito questo strumento, facendo spending review, di fatto introducendo una tassa sulla ristorazione. E come l'ha fatto? Per farlo capire anche ai nostri radioascoltatori, l'ha fatto di fatto condizionando il mercato. Lei sa che Consip di fatto gestisce un terzo del mercato. Il mercato vale circa 3 miliardi e 200 milioni di euro. Le gare pubbliche, cioè per dare da mangiare ai pubblici dipendenti, valgono poco più di 1 miliardo di euro. Ecco, l'ultima gara Consip, la gara Consip 8, è arrivata ad un livello medio di commissioni, che loro chiamano sconto, ma di fatto sono commissioni, del 20%. Che mi sembra un po' tantino, a cui bisogna aggiungere, noi stimiamo circa un 10% di costi di gestione, perché lei ogni volta che transa un buono elettronico paga una fee, il POS lo deve pagare e non è un unico POS, per cui se lei ha 4, 5, 6 società di emissione deve avere 4, 5, 6 POS, ognuno di quelli costa decine di euro al mese. In più ci sono gli oneri finanziari. Ecco, noi abbiamo stimato che oggi avere un buono pasto per un esercente gli costa il 30%. Lei capisce che insomma, la remunerazione, la redditività del nostro settore certamente non arriva. Ha avuto a dei problemi. E questo allora, ci fa capire anche perché qualche volta se ci presentiamo con questo titolo di pagamento qualche esercente non gioisce. Storce un po' il naso. Ecco. Allora prendiamoci una pausa poetica, dottor Calugi, torniamo subito. Ma volevo ringraziare Lilia Bernacchi che ci ha dedicato questa... Lilia ci vuole molto bene. Sì, ci ha dedicato questa poesia da leggere il giorno di San Valentino. Ode Valentina con sentor dantesco, così l'ha chiamata. Tanto gentile e tanto onesta pare la Rosciani nel decantare della borsa gli andamenti e le vendite ardite dei temerari agenti. Ella sen va sentendosi laudare dagli ascoltatori che con elogi e complimenti la loro stima le san mostrare e ogni dì l'ascoltano senza mai essere assenti. E mentre lei si mostra sì piacente a chi la va mirando, l'amabil nerazzur meazza con far serafico delle norme dei tributi va le rime celebrando e con cantare meneghino ora si appresta ad annunciare il traffico. Io sono la prima luce del giorno, il colore del mattino, il momento d'oro. Sono il tuffo nel piacere e la musica per il palato. Nasco da terre lontane per arrivare ovunque. Sono l'accordo delle arabica più pregiate io. Sono l'armonia e il mio nome è Lavazza Qualità Oro. Nuovi Lavazza Qualità Oro e Caffè d'Altura. Sinfonia perfetta per mocha in capsule. Di denari. Io volevo chiedere in base ai buoni pasto, è vero che adesso hanno diminuito le soglie da una parte e aumentate dall'altra, però i buoni pasto cartacei sono accettati in quasi tutti i supermercati e in quasi tutti i posti, mentre quelli elettronici non tutti i supermercati sono abilitati e non tutti i ristoranti sono abilitati, cioè ci mettono anche un po' in difficoltà queste persone, non va mica bene così. era proprio il nostro ragionamento, sì, fatto con i nostri ospiti. I buoni pasto poi vengono utilizzati, lo sappiamo, nella prassi anche per pagamenti, appunto per pagare nei supermercati, ad esempio, una delle possibilità. Ma vorrei, abbiamo interrotto prima il direttore FIPE, Roberto Calugi, ci stava illustrando qual è la condizione, diciamo, complessa che in questo momento tutta l'area dei buoni pasto, e in particolare per poi i pubblici esercizi che li accettano, tutta quest'area sia in grossa difficoltà, sostanzialmente anche per un problema proprio di impossibilità a coprire i costi, quindi sembrerebbe neanche con più conveniente, insomma, per un esercente accettare questi buoni pasto. Calugi, sto esagerando ovviamente, semplificazioni giornalistiche. Poi i numeri sono sempre numeri, sa, le opinioni possono divergere, ma i numeri poi si parlano in maniera molto chiara. Spesso e volentieri si accettano i buoni pasto perché non vuoi perdere il cliente, per cui se hai un cliente che ti viene lì e ti paga con il buono pasto, lo accetti, perché poi comunque sai che ti tornerà e ti pagherà cash. Però, se mi permettete, io come dire, metterei anche l'accento su un altro aspetto. Questo è un mercato che non deve provare di avere problemi, ha già avuto un grosso problema che vale 325 milioni di euro, che si chiama fallimento del gruppo Qui, esatto, che è avvenuto poco tempo fa, che abbiamo ricordato in apertura, infatti, sì, sì. Prego. Ha lasciato 320 milioni di euro di fallimento, dei pubblici esercizi ne ha lasciati 200 milioni, sono rimasti scottate migliaia di piccolissime attività, per cui magari nessuno ha potuto recuperare niente, direttore? Guardi, la situazione è paradossale. Allora, mi faccio anche qui fare una piccola battuta. Dei gestori del gruppo Qui se ne sta occupando la magistratura. Dei pubblici dipendenti, giustamente, sacrosantamente, se ne sono già occupati i ministeri competenti e hanno sostituito i buoni con un nuovo emittente, quindi non hanno perso nulla, e ci mancherebbe. Gli esercizi che hanno dato da mangiare ai pubblici dipendenti, anche io ero un pubblico dipendente, quindi conosco la situazione, hanno dato da mangiare ai pubblici dipendenti sulla base di una gara indetta da una società pubblica che è la Consip, gestita da un ministero. Per i dipendenti pubblici questi signori prenderanno forse il 10%. Allora capite che c'è un problema, e non si possono fare le gare per dare da mangiare ai lavoratori di fatto al massimo ribasso, perché poi si creano questi problemi qui, e in un mercato dove tutte le componenti devono guadagnare, se c'è una componente che non guadagna, poi alla fine non è giusto, sostenibile. Certo. Adesso questa ricognizione di Consip non dovrebbe essere foriera, insomma non dovrebbe portare verso un riequilibrio anche di queste così corse al massimo ribasso, giustissime per carità, nessuno è per gli sprechi, però se poi il settore non sta in piedi non mi sembra tanto conveniente per nessuno. Beh, non è conveniente per nessuno, anche perché vorrei ricordare che i ticket, come mi sembra accennasse prima la persona che parlava prima di me, è il salario diversamente reso, quindi fa parte dei contratti. Fare risparmio su una componente che dovrebbe essere salario diversamente reso, che fa parte appunto dei contratti nazionali, non credo sia una splendida idea. Mi rendo conto che c'è un problema di finanza pubblica che però non può essere come dire trasformato in un'ulteriore tassazione sulla ristorazione. Io e tutta la federazione, tutto il tavolo datoriale ha visto di buon occhio finalmente che Consip si attivasse, che su questo mercato c'è un problema. Noi lo stiamo dicendo da qualche anno, lo stanno dicendo anche le stesse società emettitrici, non solamente noi, si immagini. Io credo che però la risposta vera e propria deve arrivare dalla politica, deve arrivare da una riforma del codice degli appalti, deve arrivare dai ministeri competenti. Noi chiediamo appuntamenti su questo tema ormai da qualche mese. Abbiamo mandato un'ulteriore lettera al Ministero Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro per essere ricevuti. Le risposte, come sempre, non devono arrivare da chi poi gestisce tecnicamente, cioè Consip, perché loro applicano delle norme, devono arrivare da chi le scrive le norme. Allora, se no non si cambia. Va bene, allora ci dobbiamo fermare perché purtroppo, cara Deborah, ma quindi se io ne ho 10 in mano e voglio pagarci tutta la spesa, posso pagarla? Sirocchi. È diventata una moneta alternativa. Sirocchi, 10 allora, secondi. Il limite è di 8, si possono utilizzare fino a 8 buoni, però non ci sono sanzioni. quindi sull'errato utilizzo, così anche chiarito dal principio numero 6 del 2019. Grazie, grazie a Stefano Sirocchi e Roberto Calugi. Salutiamo Lilia che ci scrive: ma grazie, mi sono commossa, siete la coppia più amabile di Radio 24. Grazie Lilia. Fornitura di buoni pasto per Lilia, per le